Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come fa una città a diventare un brand? La sintesi della creatività e delle eccellenze che esprime. È quello che cercheremo di capire oggi nel primo dei nostri approfondimenti dedicato al progetto Brand Milano. Dal mondo della bicicletta, uno dei nostri sorvegliati speciali, arrivano i primi numeri su larga scala per quella che è stata definita la Bikenomics. Anche la fabbrica va in vetrina e diventa negozio. È la rivincita dell'artigianalità, ne parliamo nello spazio dedicato al retail. Focus sui trend dedicato invece al benessere prêt-à-porter, quando le cure pronto uso fanno tendenza. Sapete infine che cosa unisce la pizza e la piazza, il rinascimento e il design? È l'universalità, la sua definizione di standard replicabili. La virtù della settimana per l'Italian Factor, affirma Francesco Morace. La borsa della spesa. Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Non fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata. Anche un film come Manhattan di Woody Allen ha contribuito a fare di New York un vero e proprio brand. Un percorso iniziato negli anni 70 quando l'ufficio del turismo decise di trasformare il soprannome della città in un simbolo, un logo ormai universalmente riconosciuto, la mela. A questo punta il progetto Un Brand per Milano, quale vetrina della produzione creativa italiana, lanciato da Altagamma, Camera della Moda, Cosmit e Comune di Milano. L'obiettivo è quello di riunire moda, design, cultura, gastronomia, alto artigianato in un unico simbolo. Ne abbiamo parlato con Silvia Barbieri, Head of Strategy di Future Brand, l'agenzia che ha firmato il logo delle Olimpiadi di Londra e di Expo 2015, l'agenzia alla quale è stato affidato il progetto di rebranding per Milano. Abbiamo raccolto questa sfida con grandissimo orgoglio, perché poter partecipare, dare un contributo al rilancio di quelle che sono le eccellenze uniche di questo paese ovviamente non può che essere motivo di orgoglio. Stiamo lavorando incrociando quelli che sono dei dati di ricerca che Future Brand mette insieme a livello globale, coinvolgendo tutti i paesi e come i paesi vedono, come se fossero dei veri e propri brand, l'Italia e Milano, e stiamo incrociando queste evidenze con quello che invece è il percepito identitario delle persone che a Milano sono influenti sia sul governo della città che sullo sviluppo della creatività. Dall'incrocio di questi due elementi andremo a identificare quello che è un posizionamento di marca, perché sarà a tutti gli effetti un'attività di branding, e da qui poi nascerà un linguaggio, un logo, ma tutto sommato il logo e il linguaggio sono la parte diciamo più semplice del gioco, perché credo che la vera sfida sia veramente quella di costruire nuove alleanze generative per questo paese. E poi si arriverà, se non sbaglio, a due opzioni di logo che saranno i cittadini a scegliere, così? Si arriverà a due opzioni e stiamo valutando ancora in questi giorni come passare da 2 a 1, ovviamente la sfida è grande, non c'è ancora nulla di veramente certo, c'è la possibilità che questa selezione venga fatta diciamo da un pubblico allargato ma creativo, in modo da riuscire davvero a costruire un linguaggio identitario in cui poi quelli che sono gli attori veri di questa creatività possano riconoscere riconoscersi. Quando si è parlato del logo per Milano, del brand Milano, si è fatto riferimento immancabile ovviamente alla mela per New York. Ecco, che cosa ha significato la mela per New York? Ma la mela è un esempio estremamente interessante, perché è un logo che in realtà è nato non con l'ambizione di essere un logo istituzionale, però lo è diventato in qualche modo nella vita delle persone, nell'interazione con questo davvero segno identitario fortissimo, e quindi credo che sia in qualche modo l'evidenza del fatto che in una città ci possono essere anche tante anime, soprattutto in città che sono ricche e complesse, certamente come New York, ma allo stesso modo anche come Milano. E anche la possibilità in qualche modo di avere più segni identitari che convivano a esprimere le diverse anime di un luogo è un segnale di ricchezza e anche di fascinazione globale. Milano è l'ottava città al mondo per consumo di beni di lusso. La popolazione impegnata nella creatività rappresenta il 33% degli attivi contro il 16% di media delle altre città. Questo lo scenario scelto per la prima grande produzione cinematografica cinese nel nostro paese. Love in Milan, il titolo provvisorio del film, che racconta di un'organizzazione cinese in trasferta in Italia per un fashion show. La star del film è Yu Bing, attore e modello famoso per le collaborazioni con i maggiori brand di moda internazionali, tra gli altri Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino. Un ponte verso un mercato molto sensibile al cineturismo, ci ha detto Alberto Contri, direttore generale di Lombardia Film Commission. Sentiamolo al microfono di Giorgia Wiseman. Il primo obiettivo è incrementare l'arrivo delle produzioni, perché questi provocano un indotto immediato molto tangibile, e poi secondariamente avverrà quello che, come ci si auspica, sta avvenendo in tutto il mondo, il cosiddetto fenomeno del cineturismo. Cioè, una volta che il film cinese o indiano viene visto nei territori loro, nasce questo fenomeno degli spettatori più abbienti, più ricchi, di ceto sociale elevato, che prendono parte, vengono a farsi le vacanze nei luoghi dove i loro beniamini si sono baciati, abbracciati, hanno condotto la loro storia. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Da tempo abbiamo individuato nella bicicletta l'oggetto simbolo del cambiamento degli stili di vita e di consumo. Ora, sotto il nome di Bikenomics, iniziano a fare notizia anche le ricadute economiche dell'uso della bicicletta. Secondo un recente studio promosso dalla Federazione Europea dei Ciclisti, l'uso delle due ruote in Europa sarebbe in grado di generare ogni anno benefici economici pari a 200 miliardi di euro, una cifra superiore, pensate, al PIL della Danimarca, e tra l'altro con un rapporto costi-benefici straordinario, 1 a 70. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Milano in uno dei workshop di City Tech, evento dedicato alla mobilità sostenibile. Il coordinatore Paolo Pinzuti di BikeItalia.it. Nel momento in cui noi decidiamo di scegliere la bicicletta, per esempio, decidiamo di evitare di spendere del denaro per l'uso della benzina, ma anche per esempio per tutto quanto riguarda la gestione dell'automobile, quindi entriamo nel mondo del risparmio individuale. Considerando che secondo i dati di Confcommercio l'automobile media in Italia costa al singolo cittadino o comunque al singolo automobilista intorno ai 4.800 euro all'anno, ci rendiamo già conto del beneficio economico in termini di risparmio individuale, ma queste insomma sono noccioline. Il grosso beneficio derivante dall'uso della bicicletta è soprattutto dalla sanità. Pensiamo per esempio alla lotta all'obesità, pensiamo al caso della riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, eccetera. Tutto questo chiaramente significa che chi fa costantemente attività fisica è meno soggetto a questo tipo di malattie, essendo meno soggetto a questo tipo di malattie avrà minore bisogno del servizio sanitario. Questo si traduce in minori costi proprio per il servizio sanitario, quindi per lo Stato. A livello aggregato in Europa questo dato vale intorno ai 110 miliardi di euro. L'inquinamento è un altro punto estremamente interessante, poi ci sono tante altre voci che vanno a comporre poi questa torta, una delle quali per esempio è il prezzo della congestione all'interno delle nostre città. Un altro studio presentato dallo studio Ambrosetti fa presente come ogni persona in Italia perda 240 ore all'anno rinchiuso all'interno della propria automobile, chiuso nel traffico. Quindi stiamo parlando di 10 giorni di vita persi all'anno. Stare 10 giorni all'interno di un'automobile significa non fare altre cose, che può essere non lavorare, quindi non produrre, ma può essere anche non andare in palestra, non vedere gli amici, non andare al ristorante, non stare con i propri figli a giocare. Il costo della congestione all'interno della città, o comunque il beneficio determinato dalla bicicletta, sarebbe nell'ordine ai 24 miliardi di euro a livello europeo. Ora torniamo a parlare di saper fare italiano, di artigianato 2.0, di sintesi tra tradizione e innovazione, con un bell'esempio che arriva dal mondo del retail, il negozio di fabbrica. Codice a barre di Cristina Lazzati. La multicanalità, un'insegna a tanti canali, a multisoul, un'idea a tante espressioni. Questo è in sintesi il concept nato dalla creatività dell'architetto veneziano Paolo Lucchetta, che ha dato vita a un negozio di fabbrica, un nuovo canale per chi ama le definizioni semplici, ma nello specifico un omaggio a saper fare italiano e una mise en place di quello che è il backstage del prodotto, un po' educational, un po' racconto e un pizzico di magia. Inaugurato pochi giorni fa a Busnago, in provincia di Milano, il negozio prende i passi dall'archeologia industriale dello spazio in cui è inserito, la filatura e tessitura di Tollegno e la manifattura di Valduggia, dove ancora oggi vengono prodotti e confezionati alcuni prodotti storici del Made in Italy, come l'anagrafe, gatto e ragno. Non stiamo dunque parlando di griff, ma di una storia industriale tutta italiana, cui il concept ha voluto rendere omaggio. Sta tornando il desiderio di prodotti con una storia da raccontare che possano durare nel tempo, una lotta contro lo spreco, un'attenzione al valore di quanto si acquista. Ma tutto questo valore va raccontato. Il cliente ha diritto di conoscere, di distinguere i filati nella fattispecie, i metodi di lavorazione, qualcosa che nel tempo si è trasmesso di generazione in generazione. Ma questo non basta. Non basta più, perché i mezzi e i linguaggi sono cambiati radicalmente. È tempo dunque che l'artigiano diventi 2.0, perché, come giustamente sottolinea Lucchetta, non dobbiamo dimenticare la storia e il valore di essa, ma per essere ascoltati dobbiamo raccontarla in modo contemporaneo. Essere e avere. Focus sui trend. Ha a che fare con la cura del corpo e dello spirito la tendenza di questa settimana. Parliamo di benessere prêt-à-porter, di tutti quei prodotti e servizi, cioè, che accompagnano la cura della persona a casa, in ufficio, nelle proprie abitudini quotidiane. Un benessere sempre più personalizzato e pronto uso. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab. Luisa Aschiero, bentrovata. Buongiorno, bentrovati, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Benessere prêt-à-porter, in cosa consiste? Possiamo considerare ormai da molto tempo un atteggiamento tipico dei consumatori e delle persone in generale, il fatto di considerare la bellezza come la cura di sé, quindi anche proprio quindi del proprio benessere in generale, un programma quotidiano. Questo ha portato nel corso degli anni a una sempre maggiore facilità di accesso a trattamenti piuttosto che cure anche mirate, molto specifiche, anche quasi da centri estetici all'interno del proprio nucleo domestico. Se consideriamo per esempio anche l'evoluzione che è stata rispetto a quello che è il bagno nelle case di molte persone, possiamo vedere cosa significa. Molto spesso le nostre docce si sono trasformate in dei piccoli hammam, piuttosto che le vasche che rilasciano ozono o comunque contribuiscono a dare un'esperienza di benessere più allargata e molto simile a quello che accade all'esterno. In aggiunta a questo, però, quello che è accaduto ed è stato diventato veramente un effetto dirompente nella nostra vita è la sempre maggiore pervasività della tecnologia nel nostro quotidiano, e quindi nel caso del monitorare, del tenere questo programma quotidiano, di osservazione di noi stessi, anche proprio con lo scopo di conoscerci sempre di più, ha fatto un triplo salto mortale da questo punto di vista, possiamo dire, perché sono stati realizzati e sono sempre più anche utilizzati una serie di tools, quindi di oggettini anche molto, di nuovo molto interessanti anche un punto di vista proprio della scelta del design estetico, che vengono in questo caso portati direttamente sul corpo. Faccio un esempio tra i più famosi, da questo punto di vista, abbiamo per esempio la prima versione, che ora è stata recentissimamente implementata, del Fuel Band di Nike, nato inizialmente come braccialetto, chiamiamolo così, per monitorare la propria attività fisica, e con proprio la possibilità di differenziarlo a seconda dei diversi sport che si stava facendo, per vedere però la performance, ma non solo, anche quindi tutti i parametri fisiologici, dal battito cardiaco eccetera, che potevano contribuire a migliorarla, piuttosto che invece un'ulteriore evoluzione di questo, sempre un altro braccialettino che si porta sempre al polso, Jobon, che ha aggiunto una funzione ulteriore, quella di monitorare anche l'attività della persona durante la notte. Arriva addirittura a verificare l'andamento delle varie fasi del nostro sonno, decidendo qual è il momento migliore per svegliarci, quindi funziona anche da sveglia, ma da una sveglia quindi molto molto mirata. Tra l'altro, sul Fuel Band di Nike è stato anche costruito un bellissimo progetto di marketing basato sulla gamification, quindi questo a dire quanto poi le tendenze più avanzate spesso si incrocino nella messa in atto delle aziende, anche a livello di comunicazione. Sì, assolutamente, anche perché poi un altro aspetto fondamentale di questi tools, di cui sto parlando soprattutto di questi ultimi, è la possibilità che si hanno collegandosi agli altri device, per esempio a uno smartphone piuttosto che a un iPad, un tablet in generale, è la possibilità che si ha anche di condividere l'esperienza con le altre persone, che è un altro degli aspetti, quindi anche tra virgolette molto utilizzabili in chiave di marketing, perché si stanno creando delle vere e proprie community da questo punto di vista, di persone, si chiamano quantified self, gruppi di persone che condividono un'esperienza di un monitoraggio non ossessivo, ma comunque potrebbe dare l'idea di qualcosa di questo tipo. Invece molto spesso viene anche vissuto come un gioco della coppia, che poi quotidianamente si scambia le informazioni, o rispetto a quello che è stato per esempio anche il numero di calorie ingerite, fotografando il proprio piatto prima di iniziare a pranzare, è possibile poi anche avere in tempo reale il numero esatto delle calorie che poi si ingeriranno, eccetera. Quindi sicuramente sì, è anche molto importante, forse anche per un futuro, questa idea, l'idea di sviluppare questi tools anche in questo modo, di oggetti che poi sicuramente aiutino la performance personale, quindi aiutino a conoscersi meglio, quindi a vivere meglio, però a vivere realmente meglio la qualità della propria vita in generale, partendo quindi anche da questa osservazione, però anche collegandola a un'idea di integrazione e di sharing. Italian Factor. Nuovo appuntamento con il nostro viaggio alla ricerca del fattore di eccellenza in grado di stimolare, ispirare e guidare la ripresa è l'Italian Factor, a firma di Francesco Morace, che mi ha raggiunto in studio. Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Stiamo analizzando le virtù di cui si compone l'Italian Factor. Abbiamo parlato di varietà, di familiarità, di vitalità e di intelligenza. Oggi, Francesco? Oggi parliamo di universalità, che è interessante perché sembrerebbe l'opposto della varietà di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. In realtà è una caratteristica tipica della nostra cultura. Se pensiamo alle fasi storiche, dall'Impero Romano al Papato, al Rinascimento, sono tutte fasi in cui siamo riusciti, a volte anche senza saperlo, ad essere ecumenici, a proporre valori, visioni che il resto del mondo ha in qualche modo apprezzato ed ha accolto. Questo è avvenuto anche nel dopoguerra, perché prima col design italiano, poi con la moda, sicuramente ricordiamo la copertina dell'82 di Time che elegge Uomo dell'Anno Armani, che è stato un po' l'inizio di questa straordinaria cavalcata del fashion italiano. Siamo ancora oggi considerati dei grandi produttori di qualità universali. Sono situazioni di successo che è anche giusto rivendicare con un pizzico di orgoglio, ci sta. Ma direi proprio di sì, perché è veramente una capacità che abbiamo e che riguarda tutti i settori. Pensiamo alla plastica, no? Al di là di Natta, che su questo addirittura vince il premio Nobel, la capacità di alcune aziende come Cartel da un lato, Alessi dall'altro, di ripensare a categorie di prodotto usando un materiale come la plastica che veniva considerato un materiale povero. Quindi è un'universalità che viene accolta nel mondo come la capacità italiana di essere creativi. Quanto vanno rivalutate a questo riguardo le nicchie del nostro sistema paese? Guarda, in realtà le nostre nicchie, essendo universali, vanno molto al di là di questa definizione che a volte è limitativa. Se pensiamo al mondo agroalimentare, che è sempre una cartina di tornasole significativa, pensiamo a come l'espresso, il caffè espresso, che fino a qualche anno fa era una nicchia di mercato, perché il caffè veniva bevuto come caffè filtro, no? Nella gran parte dei paesi nel mondo. Oggi il caffè espresso, e quindi poi marchi importanti come Illy, Lavazza, insomma tutti i grandi produttori italiani, hanno su questo costruito una nicchia globale che è diventata universale. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook. Se vi siete persi qualcosa, trovate lì e anche sul sito di Radio 24 questa, come le altre puntate di Essere e Avere, in attesa di risentirci come sempre sabato prossimo alle 16:30. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.